buongiorno, eccoci qua, puntuali o quasi, 11:31, nuovamente in diretta per il Jazz Live di oggi, venerdì 17, beh, non è foriero di sventura, cerchiamo di esorcizzarlo con la buona musica, è arrivato anche un raggio di sole per questa vigilia di weekend. Iniziamo quindi il nostro osservatorio, oggi con ospite in diretta per quanto riguarda il Bologna Jazz Festival e non solo, presto lo presenteremo, intanto do il buongiorno ad Alfredo. Ciao Alfredo. Buongiorno Willy, ma qui ovviamente ubi maior minor cessa. Bella, avanti l'ospite. Certo. Ciao Emiliano, bentornato. Ciao, grazie dell'invito come sempre. Ma grazie a te. Emiliano Pintori dal Bologna Jazz Festival. Sì, e poi tante altre cose parleremo in Cantina Bentivoglio, il Jazz Insight legato al Bologna Jazz Festival. È stato presente anche al Mood Groove tra musica e organo Hammond legato alle grandi arene e ai grandi eventi sportivi. Abbiamo fatto una sorta di intersezione per quanto riguarda questa realtà. All'interno del Jazz Insight 2023, l'incontro sull'organo Hammond portato dal nostro Emiliano Pintori è stato certamente pregevole sia come contenuti che qualità musicale e divulgazione culturale, un po' difficoltoso come logistica, Emiliano. No, infatti io faccio sempre dei ringraziamenti quando inizio, ringrazio il museo, il Jazz Festival, perché in questo caso, però in questo chi caso ha portato... ho ringraziato anche me stesso, infatti è piaciuta questa cosa perché è successo che purtroppo da una porta non passava che è un corridoio collegato all'ascensore, quindi insieme ai due, diciamo, trasportatori dell'organo, mancava uno, l'ho fatto io anche, che comunque portare un organo Hammond insomma non è facile, e quindi insomma c'è stato uno sforzo fisico anche. Beh, non solo intellettuale, paga, però, in palestra, poi si passarono carina, è più semplice. Adesso ci sto pensando, devo dire che poi dopo ho goduto perché l'Hammond è la vera cosa, l'hai smontato, cioè, Leslie, come ho detto anche l'ho anche aperto, sì, no, tra l'altro questa cosa è molto incuriosito perché insomma chi è appassionato di Hammond queste cose le sa, però poi la gente non conosce questa macchina, che tra l'altro è una macchina che ha una concezione degli anni 30, quindi è come entrare dentro un motore di quelle macchine d'epoca, quindi ha un fascino tecnico proprio, oltre che insomma la sua storia musicale. Certo, i grandi protagonisti. Ma sai che Emiliano ha confessato a una macchina nella sua carriera? Non ha mai visto Jimmy Smith? Sì, no, beh, è vero, questa è una macchina per un organista, no, che tra l'altro, diciamo, appunto, però quello che si diceva prima, non l'ho visto, qualche amico ci andò a Milano a vederlo, mi pare fosse il primo del 2000, purtroppo era un po' gli ultimi in condizioni anni, non era, quindi devo dire, sono anche contento di non averlo visto, nel senso che ho la memoria dei grandi dischi, a volte succede vedere degli idoli, chiaramente, che sono un po' al termine della carriera e si ha un impatto diverso, quindi diverso dal loro massimo splendore. Noi iniziamo con qualcosa che abbiamo già sentito, vero Alfredo? Sì, ieri sera al Mast, un gruppo d'eccezione, quattro musicisti notevolissimi: James Brandon Lewis al sassofono tenore, Aaron Ortiz al pianoforte, Brad Jones al basso e Chet Taylor alla batteria. Quattro signori musicisti. Sappiamo che Brandon Lewis è un po', non dico degli emergenti perché c'è ampiamente emerso, però in una fase ancora maturazione del suo sviluppo, ha una forza di suono che qualcuno l'ha paragonato non per la tecnica ma per la forza di suono a Pharoah Sanders, e quindi non è un complimento da poco. E poi naturalmente ha questa malinconia, come sentiremo anche nel brano che mettiamo su, un po' alleriana, un po' in questo lamento, e uno sviluppo da solo sempre molto valido. D'altra parte un grandissimo Chet Taylor, che sì, musicista un solidissimo pregevole, Brad Jones, sì, che sempre. E poi l'unico neo di questo concerto, che il pianoforte Ron Ortiz era poco amplificato all'inizio, quasi niente, e poi dopo l'hanno alzato, ma insomma è stato qualcosa di importante al Mast per quanto riguarda la Bologna Jazz Festival in questa sold sede. Out ovviamente. We'll be right back. Beh, a tanto farò a Sanders. Sì, molto farò a Sanders. Direi che se tu, Willy, non c'eri, ma ti saresti commosso perché ha fatto prima della fine un breve brano, annunciato solo nel tema, ma che era profondamente soul groove. Sì. Beh, lui ha nelle sue note, come questo. Ho ascoltato diversi dischi e diversi brani. È molto anche spiritual. Come... Cioè, sì, esatto. E a proposito di spiritual, hai citato farò a Sanders. Con Emiliano parleremo di San Ra. È un altro religioso, anche se viaggiava su galassie estreme. Saturno, lui diceva, no, Emiliano? Sì, sì, sì. È un personaggio veramente interessante, complesso. Poi, come si diceva prima, che univa cose veramente anche in opposizione radicale, in momenti potevano essere di grande languore, quasi da big band dell'epoca dello swing. Fletcher Henderson. Improvvisazione, ecco, con cui ha suonato. Poi improvvisazioni radicali, e in assoluto lui chiaramente, diciamo, comunque è un personaggio complesso, anche controverso, no? Nel senso che ha degli elementi, però sicuramente è stato un visionario incredibile. È una musica difficile da, come possiamo dire, conoscere, perché tocca ambiti incredibili, anche radicalmente diversi. È musica totale. Ha una discografia complessissima. Anche molto estesa. Molto estesa, ma complessa, perché poi in gran parte era stata autoprodotta ai tempi, quindi poi è stata ristampata. Cioè, è difficile tirarne le fila, chiaramente, ma forse non è neanche questo il senso. Ognuno può osservare degli aspetti diversi. È un personaggio comunque che ha un peso, secondo me, notevole, perché e probabilmente l'esperienza di San Ra, in estrema sintesi, è una delle forme più creative, anche più surrealiste, più incredibile, di resistenza culturale della comunità afroamericana, o da parte di un afroamericano, insomma, perché la sua, diciamo, auto descritta, insomma, provenienza extraterrestre, certo, è chiaramente leggibile in questi termini, insomma, come una reazione straordinaria di un soggetto che è nato in un mondo in cui il suo stesso nome o cognome, insomma, non appartenevano alla sua reale origine, quindi certo, Sonny, sì, si chiamava Herman Blount, e sì, e qui detto Sonny, giustamente, e che però poi nel frattempo appunto prende questa sembianza che è tra antico Egitto, esoterismo, spaziale, quindi insomma sì, eliocentrico, quindi ha tanti temi molto interessanti. È un musicista come San Ra che ha avuto tante visioni, ha avuto tanti percorsi, ha visto dallo spazio la motivazione di poter dire, quando si è presentato in alcune case discografiche, aggiungendo questa clausola: tutti i dischi che saranno venduti, se per caso arriverà qualcuno abitante di Saturno, per lui la pubblicazione è completamente gratuita. Ecco, per dire anche l'immagine. C'è un bel libro sul teatro povero popolare, che Grotowski ed altri, insomma, e c'è anche un capitolo San Ra che racconta che nel 58 uscivano dal suo locale Saturn a Chicago per le strade alle 3 di notte, tutti paludati da extraterrestri suonando con dei pasti per le strade. Pensa che bello vedere, pensa adesso non possono farlo. Pensa al Carlino cosa scriverebbe. Sì, no, poi no, devo dire, la cosa incredibile sono le date nel suo caso, nel senso, perché lui è un personaggio, come spesso accade per molte figure afroamericane, anche nella letteratura, nel cinema, che sembra effettivamente non avere una collocazione temporale, perché per certi aspetti è veramente arcaico, per altri era anticipato i tempi, perché comunque l'avanguardia sì, l'ha anticipata lui e altri, ma lui in un modo veramente unico. Non si ricorda tanto, ma è stato il primo nel jazz a introdurre, ma in tempi non sospetti, le tastiere elettroniche, visto che si parlava, a parte l'organo Hammond, ma Hammond per esempio produceva questa tastierina che si chiamava Solo Vox, una cosa che lui già la suonava negli anni 40, poi l'ha introdotta negli anni 50, in un'epoca in cui non esisteva le tastiere, quindi ha anticipato in un certo senso quella cosa. L'improvvisazione, questa è tutto il discorso performativo tra Saturno, ma anche tra il discorso, diciamo, in qualche modo di un africanismo così complesso, eterodosso, che anticipa anche fenomeni anche del funk, per dire, se si pensa a George Clinton, oppure anche come immaginario funkadelic, esatto, e quindi è un personaggio veramente che non è collocabile, tant'è vero che spesso è più conosciuto da chi non segue poi direttamente il jazz, nel senso più ortodosso, notato, ma magari chi ha una visione della musica di ampia, altri magari anche di musica sì. ambient. Lui ha anticipato per certi versi anche delle cose che sono state fatte dal minimalismo, dalla musica ambient o noise. Mi hai tolto la parola di bocca perché ho avuto un motivo di discussione con, grazie Emiliano, perché mi confronto con Angelica, con Walter Rover per questo, e ha fatto sul minimalismo. Dico, beh, sul minimalismo, dove mi sento informato, porto alcuni dischi dell'Actual di San Ra. Ma San Ra non è esattamente minimalismo, e invece secondo me ha una parte che... è una cosa sul contrario, è una... perché esattamente sta tra la commedia musicale del mio, tra il musical e il free jazz, cioè che sì, sì, cose sì. apparentemente opposte. Chiaramente se si fa un discorso minimalista ci si rifà ad altre scene artistiche, certo. poi particolari, però ovviamente diciamo che al suo interno, tra le varie cose, c'è anche comunque qualcosa che per certi versi anticipa forse una forma più di ambient anche concreto, possiamo dire, quindi l'utilizzo di certi suoni, certi rumori che fa in alcuni di questi dischi. Comunque ripeto, gli spunti sono tantissimi, a volte ci sono anche dei momenti non eccelsi, come possiamo dire, anche a volte anche, quasi kitsch, no? Come si diceva, anzi dei dischi doppi tutti, sì, insomma, però voglio dire, anche il discorso del kitsch fa parte comunque di questo, questa cosa che sì. loro si mettevano queste tute, diciamo, spaziali, che però erano tutte ovviamente povere, che poi dopo un po' si usuravano, da robe vecchie, esatto. immediate. Però ha a che vedere anche con la fantascienza in generale, che è un tema molto importante anche negli anni 50, che noi forse abbiamo dimenticato, perché però in quegli anni il discorso della scoperta spaziale era un tema che poi tra l'altro toccava anche, non so, il design degli oggetti, Space Age Pop. Esatto, quindi è qualcosa che aveva a che fare anche, se vogliamo, con una sorta di possibilità unica che rimaneva, se vogliamo, alla popolazione afroamericana, di dire, beh, qua sulla Terra ci hanno tolto il nome, ci hanno praticamente segregato, vediamo se nello spazio possiamo effettivamente... Uno spazietto. Troviamo uno spazietto. E magari anche più esteso, se seguiamo devo il mondo dire che di San Ra. Tra i tanti sarà, io quello che prediligo è sarà a fine anni 50, Saturn ristampato Impulse, quando era ancora un hard bop, però intanto scoppiava la follia, sì. Sound of Joy per esempio. Sì, io devo dire, essendo sì anch'io quello che ascolto più volentieri, nel senso che tra l'altro lui va dei solisti eccezionali, Pat Patrick, sì, John Gilmore. In particolare John Gilmore, secondo me, Pat Patrick anche sicuramente, che poi aveva collaborato con tanti altri. John Gilmore insomma stava quasi entrando nel gruppo di Davis, posto di Coltrane, a un certo punto poi ha partecipato anche al gruppo di Blake brevemente. Sono solisti eccezionali e spesso poi magari sono accompagnati da altri musicisti diversi. Questa anche in questo senso anticipa un po' anche la scena di Chicago, perché poi lui stava a Chicago ma poi va a New York. Però poi quell'idea, come dire, di una musica che contempla un po' tutti i livelli insieme, quindi grandi artisti lui eccezionali. Prima che l'arte ensemble. Quella cosa lì in qualche modo anche lui l'anticipa, perché certo. era una comunità, anche se vogliamo, che rispondeva a delle esigenze sociali, persone che erano, cioè, avevano bisogno di un qualcosa. Centro, di qualcosa. Senza dimenticare la June Tyson, la Olivia del jazz, che sembrava la fidanzata di Popeye, ma era una gran voce. Poi anche la voce e la danza, naturalmente, la cioè danza. Tutte sì, queste teatrale, cose teatrale, giusto, teatrale. E poi anche il fatto che comunque veramente questo collegamento comunque con l'era dello swing, che è forte, sì. cioè lui nasce in un momento in cui il top, cioè i grandi sono Duke Ellington, Count Basie, tutte le territory band più piccole, e poi in seguito lui lavora con Fletcher Henderson, però in un periodo già, diciamo, finale. E oltretutto lui lavora anche nei teatrini di burlesque, quindi c'è un mix di cose strane, appunto, che mette insieme, come dire, intrattenimento, danza. In certi momenti ci sono dei temi suoi che comunque hanno quel languore tipico di quegli anni 30, come possiamo sì. dire, e magari che però sfociano in deliri ogni tanto colossali. Quindi comunque è una musica molto interessante, perché è sempre visivamente molto ricca, e come tutte le cose molto ricche va presa a volte a piccole dosi, va non tutto, però ci sono delle perle dentro bellissime. E a volte anche Batussi, per esempio. Batussi è meraviglioso. Ah sì sì, ho presente, bellissimo. A proposito di languori, Alfredo, non vorrei confondere con i tanti aneddoti che mi ha raccontato, siccome è molto giovane, ha visto tanti musicisti. San Ra, goloso di lasagne. Sì, io ci mangiai la pizza insieme con col fiore del sole. Però lui stava zitto, mangiava. Marshall Allen era più prolifico. Non ho scoperto, un altro grande che musicista. È attivo ancora, sì, sì, lui sì. è proprio l'ultimo, diciamo. Comunque, credo che l'aspetto più caratteristico di San Ra, tra i tanti, è che sembra non avere vissuto l'era pop, Cioè lui pesca direttamente, dice, dallo swing, il bop non c'è tanto nella musica di Sarra. Però c'è nei suoi solisti, eh? Nei solisti certamente. Nei solisti, cioè, perché Gilmour ci sono dei dischi. No, no, nei solisti sicuramente. Che fa degli assoli quasi da manuale a volte, certo. Cioè nel senso proprio li tiri giù come se fanno i musicisti, nota per nota, e dici, beh, qui insomma è tutto a posto. Nelle soli certamente, ma nelle composizioni il bop non sono quelle temi bop. No, cioè, ma perché è una generazione altro, comunque è prima. Lui era del 14 mi pare, quindi è più vecchio di Dizzy Gillespie, per dire, che comunque era già vecchio per i bopper, nel senso sì. Era tra i più vecchi, Parker era del 20. Quindi lui sì, il suo retaggio culturale è quello lì, sia delle orchestre swing, diciamo degli anni 30. Sì. Io ce l'ho qui. Questo è teatro, cioè Space is the Place, è uno dei brani più rappresentativi. Sai come si apriva lo spettacolo? The world is waiting for the sunrise, ecco. For the sunrise. E tutti aspettavano all'arrivo del guru. E lui arrivava col suo mantello. Certo, con la Ciccionasso. Da faraone, tra l'altro. Faraone. Sì, sì, la presentazione è già uno spettacolo che durava parecchi minuti, nel senso sì. Che era già con ballerini. Una decina di minuti. Sì, sì, era una celebrazione. Poi la cosa bella è che c'è sempre questo elemento un po' di posticcio, di artificiale, no? Questi, sì, immediato. Che però fa parte un po' della sua figura, cioè lui è anche un impostore, secondo me, questo da dire, nel senso, però è un impostore come sono impostori alcuni, perché un po' anche lo spettacolo in sé è un'impostura a volte, no? Nel senso, certo. Il contesto. È finzione. Quindi mettere della finzione nella finzione a volte produce invece degli effetti di verità superiore, no? Quindi è un gioco su vari livelli. Tra l'altro Sarra, adesso non abbia detto, ma era un personaggio in modo anche coltissimo, aveva delle letture che andavano dalla filosofia all'egittologia. Lui ha tenuto un corso universitario a un certo punto, un po' contestato però, alla Berkeley, e era una persona che aveva una quantità di letture anche, diciamo, insomma, persona non personale, ma era un lettore vorace. Certo. Quindi non è che quello che faceva lo faceva così perché a caso. Vabbè, beh, c'era un pensiero sotto, ispirazione continua, sì, sì, in sì, un'arte sì. Trasversale. Noi continuiamo perché abbiamo anche modo, quindi però aspetta un attimo, facciamo le cose fatte bene, ricordiamo che Delio Centric, ovviamente chiamato così l'incontro World of Sun Ra, dedicato a Sun Ra con la partecipazione di Fabrizio Puglisi, sarà martedì 21 novembre alla rassegna Zest Insight al Museo della musica. Beh, anche Puglisi è molto estroverso. No, ma infatti adesso questo poi devo andare perché piene. È importante. No, beh, io allora intanto è un pianista e però porterà anche un sintetizzatore per il discorso che si faceva prima, perché poi Sarra è uno anche lì innovatori di questo, dell'utilizzare sintetizzatori che sono strumenti comunque futuribili anche, cioè allora aveva un effetto che chiamava questo. E poi lui è un improvvisatore, a parte che grande jazzista, però diciamo è un, veramente ha lavorato tanto sull'improvvisazione, quindi era il personaggio migliore da chiamare, spero, anzi sono sicuro che farà una cosa molto bella, e poi faremo qualcosa insieme perché porto l'organo e quindi lì proprio andiamo su, chissà cosa succede, cosa succederà, non a si che sa. Ora Emiliano? Che... Allora è il martedì appunto, sì? Ed è alle 18 al Museo della Musica in Strada Maggiore. Per quanto riguarda l'incontro dedicato a Sun Ra, Fabrizio Puglisi, Emiliano Pintori, curatore della rassegna Jazz Insight degli Eccentric Works of Sun Ra. Meglio prenotare, altrimenti si rischia di rimanere fuori. Sì, no, tra l'altro adesso guardavo. C'è qualche... sold out. È già sold out. No, qualche posto c'è ancora. Però sì, per chi è interessato, vi consiglio subito di andare sul sito del museo. No, qualche posto c'è ancora, pochi, ma e quindi approfittate del Jazz Live che vi dà informazione esatto. Per queste motivazioni di incontro assolutamente curiose e interessanti. Torneremo a parlare di questo a breve. Facciamo uno stacco musicale ricordando per questa sera all'Unipol Auditorium alle ore 21:15 è un concerto in abbonamento, per quanto riguarda il Bologna Jazz Festival, quindi ha la curatela di questo incontro Samara Joy Quartet all'Unipol Auditorium. Auditorium è la stellina, la stella ormai si può dire, tra quelli che sono presenti all'interno di questa rassegna, che esula un pochettino dalle sonorità, se vogliamo, anche, non so, Bill Frisell, Ron Carter. Ecco, questa ha qualche anno in meno, come hanno portato i Romy, che è stato un concerto interessante. Allo stesso modo Samara Joy Quartet sarà la voce di questa sera per il Bologna Jazz Festival. Just can't get out of this mood. Last night your lips were too appealing, and the thrill should have been all gone by today. In the usual way. But it's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool to dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you, but I'm saying it and I'm playing it dumb. Can't get out of this mood. Heartbreak, here I come. Can't get out of this mood. Can't get over this feeling. Just can't get out of this mood. Last night your lips were too appealing, and the thrill should have been all gone by today. In the usual way. But it's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool to dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you, but I'm saying it and I'm playing it dumb. Can't get out of this mood. Heartbreak, here I come. Questo mood non si può uscire anche da un'ispirazione che, come ha detto Alfredo e condivido, ricorda Sarah Vaughan, o Sarah Vaughan per dirla in maniera più corretta, grazie, anche se poi nessuno capisce chi sia. No, lei è giovane talento, è la juniores della formazione selezionata per i concerti nei teatri dal Bologna Jazz Festival. Tra l'altro si sta confermando per quanto riguarda queste sonorità, in quanto ha portato a casa il Grammy, premio importante per la musica, come ben sapete. E questa sera alle 21:15 all'Unipol Auditorium, Samara Joy Quartet. E sulle voci femminili, qua cambieremo registro nella seconda parte, visto che siamo con Emiliano che sta curando il Jazz Insight, e per portare a termine questa rassegna, nella parte successiva dopo la pubblicità al Jazz Live avremo modo di trovare una importante protagonista. Come vi accompagno alla pubblicità? Vi accompagno alla pubblicità con il Torrione per il concerto di questa sera, che vede Erika Alexander, Vincent Herring, The Battle con lo special guest Mike Le Donne. È una formazione che ci regala questa musica. Intanto segnalo che questo è all'interno del Jazz Club Estense Il Torrione. È una capacità espressiva importante, è una formazione che vede sax alto, tenore, pianoforte, contrabbasso e batteria, e questo appunto il motivo di anticipo per il weekend ferrarese. Ci ascoltiamo qualche nota da Eric Alexander, Vincent Herring, per dare spazio alla pubblicità e tornare in diretta per il Jazz Live con Emiliano Pintori e il Jazz Insight 2023. Eccolo qua, a tra poco. I wish I could share that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. Nuovamente in diretta con il Jazz Live di oggi venerdì 17 novembre. Beh, questa splendida e inconfondibile voce, visto che con Emiliano e con Alfredo abbiamo parlato di voci femminili, citandone alcune per quanto riguarda il Jazz Insight, vi anticipiamo una chiusura con una protagonista che già avrete riconosciuto, la grande Nina Simone, che qui dà un augurio di libertà. I wish. Eccola a voi, Nina Simone. Alfredo, no, hai detto poco. Nina, hai Simone, capito? Ha selezionato Nina Simone come... Ma c'è un motivo che abbiamo messo Nina Simone, eh? Sì, ci puoi dire qualcosa di più, Emiliano? Ma si sa tanto su, cioè nel senso, si sa tanto su Nina Simone. È un personaggio che ha avuto una vicenda per cui, insomma, non è stata proprio dimenticata, però ha avuto un momento di calo durante, diciamo, anche per motivi personali piuttosto seri, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Poi è stata stranamente, come dire, è riemersa grazie a uno spot pubblicitario della Chanel a metà degli anni 80. È vero. E poi da lì l'ultima parte della vita, insomma, è stata un po' più celebrativa, è tornata in auge. Comunque, vabbè, io l'altro giorno leggevo un articolo del Guardian, questo giornale che leggo sempre ogni mattina, certo, per riazzanarmi con tua, voi. Che è tua abitudine, che io leggo alle prime pagine. No, beh, capita su internet, no? E diceva che adesso attualmente è una delle voci storiche della musica afroamericana in generale più influenti nella popular music in generale. Nel senso che per le giovani cantanti, giovanissime, ventenni, anche più giovani, è una delle più ascoltate, diciamo, della storia della musica. Nella vocalità, che tra l'altro è, insomma, particolarissima, nell'espressività e in tante altre cose, anche nella figura che ha, perché Nina Simone è una donna che ha saputo, diciamo, avere una grinta anche nelle sue performance, sono incredibili, quasi a volte non dico disturbanti, ma aveva una carica espressiva autentica, fortissima, che corrispondeva a un carattere senza filtri, direi, quindi, diciamo, in cui c'era tutto. E su di lei è stato fatto un film, documentari, tanti libri, quindi insomma la sua storia è stata molto narrata. Cercheremo in questo incontro quindi di fare un po' una sintesi di queste cose, perché comunque è sempre utile, e anche magari osservare alcuni lati meno indagati. Lei era una pianista anche molto, molto sì, valente, diciamo, e si accompagnava con questo stile un po', insomma, curioso, che univa un po' rhythm and blues anche con qualcosa che veniva dagli studi, non so, di Bach o altra musica. E poi naturalmente la questione politica, che l'impegno è centrale. Sociale. C'è un documentario molto bello che si chiama, che credo sia su una di queste piattaforme, sono su una pubblicità, che è The Summer of Soul, che è non è lo stesso anno della Summer of Love, perché quella è 67, ma nel 69 ci fu questo incredibile regno, non so se l'avete vista, a Harlem. È una cosa che ha prodotto Cast Love. Sì, e sono praticamente dei nastri, delle riprese che poi sono rimaste in archivio chiuse per anni, le hanno tirate fuori, e ci sono tantissimi artisti afroamericani, da Max Roach, però c'è anche Sly Stone, e c'è anche degli artisti poi non necessariamente afroamericani, tipo Ray Barretto, musicisti di Harlem, però poi c'è Maria Jackson, mi pare. Ma quella è un'annata di ponte. 69. E lì devo dire, sono tutte. C'è Stevie Wonder, giovanissimo, incredibile. E poi quando arriva Nina Simone, devo dire che ha una presenza e si vede proprio anche il peso che aveva per quella comunità. In quell'anno lì, l'uomo, in quei giorni, l'uomo va sulla Luna. C'è un'intervista in quel film interessante. Che c'è un giovane afroamericano che dice: ma a me che me frega? Perché chiaramente poi lo spazio è diventato invece un'arma della guerra fredda e del dominio, diciamo, più che altro simbolico statunitense. Qui il problema è la condizione afroamericana effettiva, invece la metteva più, come dire, sulla questione molto più terrestre. In quei giorni a noi ci interessa stare qua. Se vi capita, questo si chiama Summer of Soul, è un bellissimo documento perché si vede veramente questa carica. E devo dire, appunto, il momento della performance di Nina Simone è uno dei, secondo me, dei più toccanti, ma come carica proprio è incredibile. E di questo si parlerà quando, ho detto in precedenza, per la rassegna Jazz Insight, mercoledì 29 novembre a Ike Prestes of Soul, le grandi sacerdotesse del soul, dedicato a Nina Simone, con la partecipazione di Silvia Donati. Di Silvia Donati, che è venuta diverse volte, è una amica, grandissima cantante. Poi, diciamo, oltre a questo, è che ultimamente anche in un suo progetto ha inserito diversi brani di Nina Simone e quindi ha, diciamo, ultimamente anche affrontato questo ambito tra i tanti che lei frequenta. Quindi, insomma, ma le tue ospiti di cantanti mette sempre delle sfide incredibili, una volta Billie Holiday, una volta Nina Simone. Sì, una volta non ti Silvia, piace vincere facile. Silvia è venuta una volta, abbiamo fatto Sarah Vaughan, di cui si parlava prima. È vero. E io ho messo un video che mi pare che faccia Misty, che erano dei brani suoi signature, come dicono gli americani, cioè quelli proprio che, insomma, che lei aveva rimodellato e faceva in un modo incredibile. Dopo lei è salita e adesso cosa dobbiamo fare? Nel senso che effettivamente, chiaramente, sono lezioni concerto, ci sono molti video. Non ha senso fare, come in generale nella musica, dei confronti, non ha nessun senso, anche perché, ecco, ma Silvia, da questo punto di vista, devo dire, mi piace molto come cantante, perché per esempio lei proprio è lei, non avendo, pur avendo tutti questi riferimenti dalla musica brasiliana al jazz, però poi è una cantante che canta la sua voce, che poi è particolarissima. Ma per evocare Nina Simone, in percentuale, quanto pensi il tempo di non dedicare alla cantante o al personaggio politico, oppure è una cosa che non si possono essere scisse? Ma adesso intanto definirò bene l'incontro in questi giorni. Volevo precisare che tutto è esaurito, questo invece in questo caso. Per chi proprio invece, per quello lo dico perché qualcuno poi ha avuto fortuna, poi qualcuno di questi che comprano i biglietti qualche volta non si presenta. Quindi comunque, per chi è molto interessato, si può provare comunque a fare un giretto al bookshop del Museo della Musica quel giorno lì, magari salta fuori che due o tre posti si sono liberati. Magari mezz'oretta prima. Così. Sarebbe da pensare di fare delle doppie. Io è capitato in alcuni incontri, chiaramente, che coinvolgono personaggi della popular music, come abbiamo fatto in passato, più noti. Magari appunto sarà più specifico, nonostante che a volte si potrebbero fare due turni, come si fa. E per quello che dicevi tu invece, è tutto unito, nel senso che chiaramente nel suo caso la sua esposizione nei confronti delle questioni politiche è proprio stata, come dire, esplicita. Lei ne ha pagato le conseguenze anche direttamente, quindi in questo caso, diciamo, la sua azione politica è soprattutto anche l'atmosfera di quel periodo e il fatto che poi una donna si potesse che occupare un elemento aggravante di quei temi, poi un elemento aggravante afroamericana, poi anche, diciamo, un personaggio che aveva non aveva problemi o inibizione a mostrare un carattere che comunque era complesso, perché lei ha, diciamo, subito delle cose nel corso della vita, perché il suo carattere era probabilmente privo di filtri e, come spesso accade a chi non è troppo diplomatico, ne paga le conseguenze. Lei prende il nome da un'attrice, il suo nome d'arte, da un'attrice, Nina Simone. Sì. Esatto, lei prende il nome da questa attrice francese. Sì, ma questa comunque, Billie Holiday, per esempio, aveva preso il nome, esatto, da una, si Eleanor, sì. Quindi era abbastanza comune, diffuso, all'epoca. Poi c'è anche un discorso, sempre oltre che ci colleghi in qualche modo a Sarra, oltre al fatto che il nome d'arte era una cosa comune in generale in quell'epoca, nel senso che tantissimi artisti, anche italiani, Monica Vitti, tantissimi avevano nomi diversi, Bobby Solo, sì. Esatto, giusto. Little Tony, anche. Little Tony, possiamo citare. Ecco, però è anche un fatto che è un modo per, come dire, ricostruire un'identità, che è una necessità da parte di chi, nel suo caso, per esempio, racconto un po' narrativo, però è questo: lei era una pianista che voleva avere anche una possibilità come concertista classica, aveva questi due handicap allora notevoli, cioè afroamericana e più donna, quindi tutto sommato abbastanza improbabile per l'epoca, e quindi diciamo ricrearsi un'altra identità era un passaggio necessario probabilmente per trovare una, per ottenere una vera identità, uno spazio e un'identità. E peraltro credo che il brano più emblematico, finito poi nella blacklist proibito, era The Mississippi Damned, questo maledetto Mississippi Goddamn, si può dire. Beh, vabbè, più era o meno la traduzione italiana. Diceva il Tennessee mi stressa, l'Alabama una porcheria, ma il Mississippi è proprio sì, potesse maledetto. Essere maledetto, quindi ha una importanza. Non era popolarissima tra i bianchi del sud. No, penso proprio di no, però ha un approccio anche in ambito di musica leggibile, in quella che viene definito pop soul, con motivo anche molto accattivante, quindi un talento assolutamente esteso a 360 gradi, come già abbiamo presentato. Intanto, allora, andiamo avanti col calendario e diamo qualche citazione. Allora, sabato 18, domani, Palazzo Magnani a Bologna, Saxo Follia Portrait. Sai chi sei? È il modello del Saxophone Quartet. Cioè, quattro sassofoni. Benevelli al soprano, Simoni al contralto, Ferri al tenore e Contri al sax baritono. E fanno dei cartoline portrait da ritratti, da Porter fino a Mina. A me è venuto in mente. Sono amici, li conosco. Conosci, sì? Sì, sono musicisti classici, diciamo, di formazione, però Marco Ferri, anche il contraltista che non conosco, però sono anche improvvisatori molto bravi, quindi è un concerto molto curato e che rientra più, diciamo, si avvicina più alla musica classica, però hanno un repertorio del Novecento, insomma, sono veramente molto bravi. Come tipo di progetto è certo. Veramente impeccabile. E mi è venuto in mente, non so, Stan Getz e Tina Brooks, chi c'erano i praticamente fratelli del saxofono sulla West Coast. Ma loro sono più vicini, diciamo, a un quartetto d'archi proprio. No. Nel senso certo, è come sonorità. L'hai precisato. Perché l'hai il saxofono, sì, non nei quartetti di sax. Non pensiamo al saxofono quarti, invece erano molto neri. No, questi sono più. No, loro sono proprio, sì, diciamo che il saxofono è uno strumento che però nelle varie taglie che ha permette veramente, loro sono precisissimi, hanno un'intonazione, qui stiamo parlando di musica appunto classica. Che si gioca molto sul contrappunto. Però, io l'ho sentito, sono veramente dettagliatissimi e è molto piacevole. Quindi procediamo per sabato, perché la scelta è ampia. Cantina Bentivoglio, Giovanni Hoffer, Marcello Molinari. Stranissima formazione, corno e batteria. Sì, ho visto, ma è anche il bello di questa curiosità, che verrà soddisfatta alle ascoltatrici e agli ascoltatori all'interno della sede di Cantina Bentivoglio. Al club, lo Sghetto Club, sempre per sabato. Westfalia, anche questa, una formazione tastiere, basso elettrico, batteria, voci ed elettronica. Siamo in un club. Vanessa Tagliabue, York, The Princess Theater. Allora, io di Vanessa Tagliabue, chissà se riesco a riprenderla, ho una interpretazione del, eccolo qua, di Milord. Oh, lo possiamo, io ricordo, lo ricordo di Milva. Di Piaf, Milva. Io me lo ricordo di Milva, da Milord. Teniamo come base, intanto che faccio il presentatore. Domenica invece al binario 69, ma Rea con Massimo Tagliata a questo strumento, fisarmonica, Andrea Dessi alla chitarra, Roberto Rossi alla batteria, sempre domenica il Tower Jazz Composer Orchestra immancabile con Piero Bittolo Bon e Alfonso Santimone per il Tower Jazz Composer Orchestra. E quindi aggiungo anche il doppio appuntamento, vi ho parlato in precedenza di Eric Alexander, sarà anche al Camera Jazz Music Club, quindi venerdì a Ferrara, al Torrione, e domenica al Camera Jazz Music Club. Je vous ai frôlé quand vous passiez hier, vous n'êtes pas de fière dame, le ciel vous comble, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous n'aviez le poro, on aurait dit en roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir. Il fait si froid dehors. Senti come il pubblico con l'hand clapping. Sì, poi questo è coinvolgente. Un canto di Golette, sai che le Golette, quelle sì, che urlavano dei ponti parigini, wow, ha recuperato questa cosa alla grande. Doppio appuntamento per quanto riguarda i concerti a teatro, non solo quello di questa sera, ma per la settimana prossima. Ne diamo già qualche citazione ed è martedì 21 novembre al Teatro Duse, arriva il trio di Bill Frisell. Tra l'altro ha un opening act questo concerto con una formazione che appunto interpreta la musica di Bill Frisell, che vede la presenza di Filippo Vignato, Alfonso Santimone, Piero Bittolo Bon, Francesco Bigoni, Zeno De Rossi. Musiche, perché ne ha fatte di tutti i generi, è vero, Frisell, dalle colonne sonore al free jazz, alla musica country, all'inno dei Marines, ha fatto di tutto. Non si può semplificare, tra l'altro. Emiliano, abbiamo parlato di Bill Frisell in precedenza, fuori onda. Tra di noi, dice. Sì, beh, certo, rendiamole pubbliche queste cose. No, abbiamo parlato bene. Sì, no, ne abbiamo parlato bene, assolutamente. Ma del resto, qui stiamo. Sarebbe difficile parlarne male. Caspita. Hai detto musica, io ho fatto un medley tra i brani. Che monche! Ho fatto un medley. Mi suona? Ho mixato Bill Frisell. Mi ha richiesto un pomeriggio, però insomma mi sono divertito tra tutti i CD di Bill Frisell messi assieme, proprio perché è un aspetto assolutamente esteso. Poi per quanto riguarda il concerto invece, che sarà martedì, lo troveremo con Thomas Morgan al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria, anticipato dalla Unscientific Italians, Play the Music of Bill Frisell. Ora, detto ciò, vicini alla conclusione, last but not least, abbiamo il concerto del sabato al Torrione, dove un virtuoso come Fabrizio Bosso alla tromba darà modo di entrare per farci conoscere nel dettaglio la musica di Stevie Wonder. Quindi potete immaginare, insomma, la mia passione già per il grande compositore, e non solo Stevie Wonder, per Motown e tante altre realtà musicali in ambito di pop, di soul, di elettronica, di bossa e chi più ne ha più ne metta, e insomma tanta curiosità per sentire il concerto intitolato appunto We Wonders, con il quartetto di Fabrizio Bosso. Beh, intanto è insomma il mio quartetto con cui suono oramai da un po' di anni, abbiamo già fatto altri dischi, uno live, poi c'è We Four che abbiamo fatto insomma in studio componendo un po' tutti dei brani originali, quindi è stato veramente un disco collettivo. E la stessa cosa è venuta per We Wonder, che abbiamo deciso di insomma fare un tributo a questo grande genio di Stevie Wonder che tutti amiamo, ci siamo cresciuti, abbiamo imparato a suonare anche con la sua musica, io ho iniziato a fare anche i primi soli sui suoi dischi, quindi poi maturando mi sono reso conto della grandezza, oltre alla bellezza della musica, delle melodie che ci rimangono in testa, ma la grandezza proprio dell'artista, di quello che è riuscito a fare, perché lui è praticamente ha la padronanza di tutti gli stili musicali, conosce perfettamente il funk, la musica brasiliana, il jazz, conosce benissimo anche la musica classica, però c'ha il suono di Stevie Wonder, cioè è riuscito a tirare fuori in qualcosa sia nelle composizioni che come musicista, come cantante. E quindi abbiamo detto proviamo a fare il nostro modesto tributo sfruttando questa musica meravigliosa, portandola un po' a casa nostra, che lo è già tanto a casa nostra, perché devo essere onesto, armonicamente non è che siamo andati a fare grandi cose, perché sono talmente belli i giri armonici che mette lui, cioè, cosa vuoi andare a spostare un accordo di Overjoy? È perfetto. Quel brano, anche una volta che hai suonato la melodia, per rispetto non mi sarebbe più fare niente, però noi insomma, facciamo un piccolo solo insieme io e Julian, però ecco, lì abbiamo dato molta importanza al tema, alla melodia. Su altri brani ci siamo divertiti, uno di I Wish è diventato un blues, Vision è stato arrangiato da Julian, l'abbiamo pensato come un po' alla vecchia, cioè anni 30, io sono, faccio il tema con la Branger, ecco, è stato questo un po' il lavoro che abbiamo fatto, andare a creare terreno che ci potesse permettere poi di fare il nostro concerto di jazz, ma suonando sulla musica meravigliosa di Steve. Sulla costruzione della musica, perché il fatto che comunque io insieme a Nico, quando siamo insieme, a Nico Gori, comunque suoniamo le sue canzoni senza avere un testo, però questo ti fa capire quanto è forte la musica, anche che riesci comunque a renderla interessante e non, insomma, non far sentire troppo la mancanza del testo, comunque riesci a portarla, no, nel mondo della musica strumentale tranquillamente, perché le melodie, certo, sono pazzesche, non sono mai ripetitive, armonicamente succede sempre qualcosa e quindi è molto stimolante, ecco, è impegnativo ma stimolante. E c'è grande curiosità per quanto riguarda questo incontro tra Bologna e Ferrara, sarà il Torrione per la giornata di sabato, io ci sarò, quindi ti ringrazio Fabrizio, allora, ci incontreremo. Okay. Grande. Un caro abbraccio. Grazie, un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao. Ecco, abbiamo anche la sigla di conclusione offerta dal quartetto We Wonder di Fabrizio Bosso nella giornata di domani per il Bologna Jazz Festival a Ferrara, al Jazz Club Estense Il Torrione. Emiliano, grazie. Grazie. Grazie a voi dell'invito. Questa partecipazione, insomma, che in maniera sintetica per due personaggi come Sandra e Nina Simone all'interno del Jazz Insight, qualche citazione anche agli appuntamenti passati con Organo Hammond, e quindi avanti così con la buona musica e con il jazz. La prossima puntata, il concerto in abbonamento sarà Steve Coleman, quindi ne avremo anche lì da raccontare. Intanto vi auguriamo un buon weekend. Buon weekend. Un buon ascolto e un buon jazz. Ciao Alfredo, ciao Emiliano, ciao, ciao a grazie, tutte, ciao a tutti.